in primo piano. Sulla scomparsa di Eluana Englaro, il paese ha scoperto di essere il giorno dopo sgomento e diviso. E i giornali di oggi rappresentano bene questa angoscia e documentano questa divisione in un dibattito molto articolato e complesso, ma bisogna anche riconoscerlo subito, un dibattito rispettoso. Sembra, almeno a me pare, che dopo le urla sui giornali, anche se non nel mondo ancora teso della politica, si sia affacciato il momento degli interrogativi, delle idee, insomma il dibattito. Vediamolo leggendo assieme i quotidiani di oggi. Il Riformista, quotidiano diretto da Antonio Polito, riporta appunto sotto il titolo "A caratteri cubitali se n'è andato" il commento del direttore, il quale dice che se la morte di Eluana doveva servire ad affermare un diritto, non ci è riuscita. È morta mentre si faceva una legge per impedire che se ne andasse e che forse si farà lo stesso una legge postuma. Le istituzioni, la politica e il sistema dell'informazione escono devastati da questa storia. L'Italia ne esce devastata. Non è stato un passo avanti nella civiltà del paese, ma un passo indietro. Avremmo dovuto coltivare il dubbio. Chi di noi non dubitava? La sua volontà era presunta, la volontà di Eluana, ma accertata da una sentenza inappellabile. La sua vita non era più tale per il padre, ma lo era per tanti che la conoscevano. La sua morte è avvenuta per sottrazione, ma di acqua e cibo e non di trattamenti sanitari. Antonio Polito, direttore del Riformista, prosegue dicendo che dentro ognuno di noi si è aperta una ferita. E guardate, la fede c'entra fino a un certo punto. Ho sentito persone religiose in questi giorni indignarsi contro Berlusconi e atei incalliti indignarsi di fronte all'idea di una ragazza che muore di sete. Chi è entrato in questa vicenda con delle convinzioni le ha perse lungo la strada. Infine Polito dice due cose di questo evento sono chiare. La prima è che ogni essere umano ha diritto a rifiutare trattamenti medici esprimendolo in maniera palese e certa la sua volontà. La seconda certezza è che oggi la maggioranza dei parlamentari ritiene che l'idratazione non è un trattamento terapeutico e dunque non lo si può sospendere. Sullo stesso tema interviene evidentemente anche l'Unità, che fa una prima pagina molto suggestiva con una sorta di schermo televisivo nero dove scritto in piccolo c'è "in pace". E il commento lo fa la direttrice Concita De Gregorio, che ricorda, si aggancia alla vicenda di 17 anni fa, quando una splendida ragazza di 21 anni tornava a Lecco a casa alle 3:30 del mattino, guidava lei la BMW del padre, era sola, l'asfalto ghiacciato ed è successo la cosa irreparabile. Concita Di Gregorio, direttrice dell'Unità, afferma in queste settimane di delirio indecente, in cui ogni cosa si è detta e si è sentita, in cui la politica ha preso possesso di una tragedia di cui per anni, pur chiamata a farlo, invitata per scritto, si era disinteressata, nessuno ha detto la sola cosa che avrebbe avuto senso e che difatti Beppino Englaro ha mormorato poche ore fa: venite a vederla. Chiunque di voi abbia assistito un malato terminale, una persona in coma, sa di che cosa stiamo parlando. Siamo in tanti, siamo quasi tutti, vogliamo dirlo? Diciamolo finalmente, dice Concita De Gregorio. Il respiro diventa un rantolo, la pelle ingellisce, il ventre si gonfia, i piedi e le mani si atrofizzano, gelano. In queste poche settimane provate a immaginare in 17 anni. La morte secondo natura di cui parla la Chiesa sarebbe intervenuta subito, quasi subito. La scienza però, la stessa scienza cui si impone di usare il sapere per la riproduzione e per la cura, si impedisce di usare il sapere per la riproduzione e per la cura, quella stessa scienza ha tenuto tutto il corpo in vita. Vita, punto interrogativo. Libero, quotidiano diretto da Vittorio Feltri, interviene con un commento molto disassato rispetto a tutti gli altri, anche rispetto alla presumibile linea del giornale che è di centrodestra. Feltri dice complimenti ai politici per la prontezza, mentre loro si svegliavano e cominciavano a discutere, anzi a litigare con la verve delle comari, lei ha tolto l'incomodo e è andata all'altro mondo forse disgustata da questo. Da un certo punto di vista è meglio così. Eluana morta impedisce il protrarsi di uno spettacolo indegno, quello inscenato dai senatori e deputati impegnati a disputare attorno al suo corpo inerte una partita per assicurarsi il maggior numero possibile di consensi di qua e di là della barricata fra cattolici e fra i laici. Vittorio Feltri sul Libero prosegue dicendo: stavolta Berlusconi, oltre che intempestivo, è stato sfortunato. Si è accorto di Eluana almeno con 3 mesi di ritardo. La sentenza che dava nulla osta alla morte della ragazza con la sospensione degli alimenti tramite sondino risale infatti all'autunno. Ma solo qualche giorno fa il premier si è dato una mossa avendo scoperto che la vicenda divideva l'Italia. Sempre Feltri sul Libero sottolinea che il Presidente della Repubblica ha dichiarato che il decreto legge proposto dal Presidente del Consiglio non l'avrebbe firmato. Quindi il Cavaliere ha ripiegato, non senza provocare un polverone, su una legge vera e propria da approvare con urgenza. Urgenza si fa per dire, dato che sabato e domenica scorsi le Camere, anziché lavorare nel tentativo di battere la morte, hanno preferito santificare il weekend rimandando a ieri la seduta. Feltri conclude dicendo: qui nella nostra redazione c'è la stessa spaccatura che c'è nel Paese sulla questione, ma sul colpevole ritardo con cui è intervenuta la politica, rimediando una figuraccia, siamo tutti del medesimo parere. I palazzi del potere hanno fornito una prova e una conferma di insensibilità, cialtroneria e incapacità. L'articolo è poi si conclude con un post scritto: un dubbio, vista la rapidità del decesso non ci sarà stata una manina del diavolo? Fosse così, a quel diavolo sarebbe opportuno levare la maschera. La Padania, organo della Lega Nord, titola in una maniera molto tranquilla, non prende posizione sulla vicenda. Il titolo d'apertura del giornale a tutta pagina dice: il silenzio del popolo davanti alla morte per fame e per sete. Quindi è un titolo sostanzialmente avvalutativo. Eluana è morta, Bossi, dopo il rispetto del dolore, la gente non può che chiedere con forza al Parlamento di approvare il più presto una legge che faccia chiarezza. E l'articolo di fondo dice: la Lega avanti senza scontri. Quindi il giornale della Lega Nord è molto tranquillo, poco esercitato su questo tema. Sul tema dell'Englaro interviene anche il Sole 24 Ore con la firma di Stefano Folli. Il titolo è: riunire il Paese, non dividerlo. Giorni, è chiaro che una particolare decisiva responsabilità, dice Folli sul Sole 24 Ore, spetta al Presidente del Consiglio. Negli ultimi giorni Berlusconi ha seguito la sua coscienza e ha giocato la sua partita politica in una miscela che è difficile da decifrare. Oggi anche lui, soprattutto lui, ha il dovere di riunire il Paese, di evitare che le parole fuori luogo pronunciate ieri sera da qualche luogotenente della maggioranza finiscano per innescare il secondo tempo del conflitto istituzionale con il Quirinale. Folli sul Sole 24 Ore prosegue dicendo: dividiamoci pure tra chi vuole difendere la Costituzione e chi vuole rinnovarla. Tanto più che i due fronti sono piuttosto mobili, le posizioni tutt'altro che cristallizzate. Ma attenzione a percorrere la strada della delegittimazione costituzionale, dello svuotamento del Parlamento o a mettere in crisi un organo di garanzia come la Presidenza della Repubblica senza nemmeno sapere con cosa sostituirlo. Sempre sul piano più politico c'è l'intervento di Franco Cangini sul Quotidiano Nazionale, il quale sottolinea che il gioco delle parti assegna a Walter Veltroni, leader dell'opposizione, il compito ingrato di difendere l'indifendibile. Come si ingegna a fare spostando il terreno di scontro dalla difesa della vita alla difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica in carica? L'anti-berlusconismo viene fragorosamente richiamato in servizio perché non vi è altro modo per cercare di tenere insieme l'anima laicista e quella cattolica del Partito Democratico che si sono scisse sulla sorte di Eluana. Ma il trucco mostra la corda, il ricorso a Oscar Luigi Scalfaro come officiante della manifestazione romana a sostegno della Costituzione del 48 richiama alla memoria precedenti che converrebbe alla sinistra a lasciar cadere nel dimenticatoio. Cangini sul Quotidiano Nazionale ricorda quali sono questi precedenti, affermando come lo spregiudicato presidenzialismo militante dello stesso Scalfaro, al tempo della sponda offerta dal Quirinale allo smantellamento per vie giudiziarie della Prima Repubblica e poi al ribaltone parlamentare contro il primo governo Berlusconi, o come il sistematico linciaggio dei presidenti della Repubblica secondo la convenienza del vecchio PC, dalla cacciata del povero Leone alla procedura di impeachment contro Cossiga, dall'aggressione a Saragat per la strategia della tensione al colpo apoplettico che evitò a Segni di passare da golpista. In confronto, conclude Cangini sul Quotidiano Nazionale, il dissenso berlusconiano da Napolitano ai toni civili di una elegante questione di diritto sull'esercizio dei rispettivi poteri costituzionali. Non si può pretendere che un premier eletto direttamente dal popolo ceda alla pretesa di considerare gli atti di governo come assegni staccati su un conto corrente a firma congiunta. Prosegue la rassegna stampa con l'analisi della nota politica di Massimo Franco sul Corriere della Sera. L'atmosfera, dice Franco, è quella della rissa sfiorata fisicamente al Senato, anzi forse più esatto parlare di tentativo di spallata contro il capo dello Stato. L'aggressione del PDL è rintuzzata da Gianfranco Fini, presidente della Camera, che dà dell'irresponsabile a Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato. Ma è l'unico. Sembra sia scattato un piano che prevede un crescendo di attacchi contro la massima carica dello Stato, reazioni solo apparentemente a caldo. Dal Quirinale arriva un comunicato che non raccoglie le polemiche, si limita a invocare il silenzio e la partecipazione al dolore. Anche questo invito però viene contestato. E in arrivo un'ondata di veleni, dice Franco sul Corriere della Sera, della quale non si riesce ad individuare la potenza. Italia Oggi con un titolo una sentenza definitiva, è morta Eluana Englaro come deciso da Tribunale Corte Suprema, pubblica un articolo del direttore Franco Becchis, il quale afferma da ieri chi ha sostenuto e gridato fino all'ultimo invocando la morte di Eluana e perfino applaudendo e festeggiando la notizia chiede a tutti gli altri il silenzio. Ma se una cosa è da evitare ora anche per dare senso alla tragedia di questa ragazza è proprio il silenzio. Non si può affidare un tema così essenziale come il diritto alla vita e il modo di stare davanti alla sua fine al libero arbitrio di questo, di questa o di quella corte e ancora più di questo o di quel gruppo di pressione. Franco Becchis su Italia Oggi prosegue dicendo «Non possiamo pensare che Luana, come chiunque di noi, possa vivere se abita a Venezia, morire se è a casa a Milano, agonizzare fra chissà quali protocolli se la sua residenza è nel territorio di un altro ufficio giudiziario». Per questo serve oggi sia la legge sul testamento biologico, sia una moratoria che congeli tutto, sappia aspettare il legislatore e impedisca ai tribunali altre sentenze in materia. Sullo stesso argomento apre il manifesto, il titolo d'apertura è «La tempesta dopo la quiete», il fondo di Mariuccia Ciotta, il titolo è «Sono sciacalli», e in questo fondo si legge il duetto del PDL «Non è morta, è stata ammazzata» e del Papa «È stato un delitto», risuona come un coro stonato, colonna sonora indecente sulle lacrime di Beppino Englaro, il padre che dice soltanto «Ho fatto tutto da solo, voglio finire da solo». E in questa solitudine vorremmo trovare un posto, essere lì con chi ancora considera l'umanità qualcosa da preservare e che è fatta di affetti e di relazioni. Il manifesto prosegue dicendo «Preferiamo stare con lui, con Peppino Englaro, senza parole e lasciare che gli sciacalli si accaniscono su un corpo di ragazza che non c'è più, inutilmente ancora crudeli, vittime di se stessi, mentre lei ci consegna un'eredità che nessuno potrà dissipare, l'idea della vita degna di essere vissuta». Su Avvenire, il quotidiano della CEI, il titolo dice «Dio ora stringe la sua mano, Eluana è morta ieri sera alle 20:10 dopo 4 misteriosi giorni senza cibo». Il titolo del fondo di Marco Tarquinio è «Adesso però vogliamo sapere tutto». Eluana è stata uccisa, davanti alla morte le parole tornano nude, non consentono menzogne, non tollerano mistificazioni. Eppure questa povera tenace speranza noi la rivendichiamo, che non ci sia più un altro caso così, che Luana non sia morta invano e che non muoia mai più. ci sia una legge, che la politica ci dia subito una legge e che nessuno, almeno nel nostro paese, sia più ucciso così, di fame e di sete. Avvenire prosegue dicendo che si indaghi fino a fondo adesso che il protocollo è compiuto e il mistero di questa fine mortalmente ci inquieta. Non ci si risparmi nessuna domanda, signori giudici. Ci sia trasparenza finalmente dopo l'opacità che ci è stata imposta fino a colmare la misura della sopportazione. E si risponda presto, si risponda subito, si risponda totalmente. Come è stata uccisa Eluana? Il Messaggero dedica molti commenti a questo evento, il più significativo è di Francesco Paolo Casavola, il quale afferma che la sofferenza interiore di quanti in questi giorni si sono astenuti dal proclamare come verità opinioni e state d'animo personali si sono acuite quando si è rischiata la strumentalizzazione politica e religiosa di una vita che si conclude come simbolo doloroso dell'esistenza umana nella presente età del dominio della tecnica sulla natura. Ora, dice Casavola sul Messaggero di Roma, dobbiamo rendere utile alla storia del mondo la ormai non più soltanto vita privata di Eluana Englaro. Gli antichi che ammonivano gli uomini a diventare sempre più umani e finanche, se possibile, umanissimi, ci esorterebbero oggi a non sciupare questa tragica e solenne occasione di progredire nella nostra umanità. Ai rappresentanti della comunità spetta, dice Casavola sul Messaggero, di trovare in una legge il punto di equilibrio fra il diritto alla vita e quello alla libertà. Agli uomini della religione che consolino le asprezze dell'esistenza invocando la infinita misericordia di Dio, ben più efficace di principi che, ideologicizzati, aggiungono solo dolore al dolore. Un giornale è La Repubblica, il titolo che è quasi religioso, Eluana, il calvario è finito. Su questo tema interviene lo stesso direttore Ezio Mauro con un fondo che dice la morte e la politica. Il nuovo calvario su cui è salita Eluana Englaro, dice Mauro su Repubblica, e dove è morta ieri sera, è questa fine tutta politica usata, strumentalizzata, quasi annullata nella riduzione a puro simbolo e pretesto feroce di una battaglia di potere che è appena cominciata nell'usurpazione del suo nome e segnerà la politica. Si chiude quindi a questo punto la rassegna stampa, e l'appuntamento è per domani alle 7:30.